Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 13 aprile, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro e Duradio, i nostri ascoltatori, ora in onda su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Do il buongiorno ai miei ospiti, Marco Santarelli da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il nostro regista cinematografico e Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, oggi diciamo anche Ramadan Karim, Ramadan certo. Mubarak a tutti gli amici e amiche musulmani dal carcere, dalla città, che iniziano il loro mese del digiuno e anche della festa, perché Ramadan ha queste due parti, il digiuno e la festa alla rottura del digiuno. E allora, guarda, mi dai proprio l'attacco per parlare della prima notizia di oggi, che leggo da rinnovabili.it, lo spreco alimentare sfiora 1 miliardo di tonnellate all'anno. Perché in Italia lo spreco alimentare delle famiglie, stando al rapporto ONU, è di 67 kg pro capite annui. Sono cifre altissime. Il 17% di tutto quello che noi compriamo va sprecato. Questo è il dato allucinante. Nel 2019 sono sparite in questo modo dalle nostre tavole 931 milioni di tonnellate di alimenti. La colpa è dei consumi domestici, oltre che dei ristoranti e dei servizi di ristorazione. Questo è un dato importante, cioè domestici significa che in primis è nelle famiglie che avviene lo spreco e quindi bisogna stare molto attenti. La fotografia è stata scattata dalla UNEP, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Protezione Ambientale, nel rapporto Food Waste Index. E secondo il rapporto la maggior parte di questi rifiuti, vi dicevo, sono scartati dalle famiglie all'11% del cibo totale disponibile, ma pensateci quante sono 931 milioni di tonnellate di cibo. Facendo una media è come se ogni anno ciascuno di noi buttasse 121 kg di cibo pro capite. E facendo una disamina dei paesi europei, tra i più virtuosi, con solo, tra virgolette, il 33 kg di cibo sprecato, ci sono Russia e Sloveni, all'estremo opposto Malta e Grecia, con 129 e 142 kg, e poi l'Italia, fra i paesi, fra virgolette, più virtuosi, con 67 kg di spreco alimentare pro capite tra famiglie. E poi c'è un aspetto etico che non bisogna trascurare assolutamente, che fa ancora più fastidio se si pensa a questo spreco, perché bisogna ricordare che nel mondo ci sono quasi 700 milioni di persone colpite dalla fame e che non meno di 3 miliardi non hanno accesso a un'alimentazione equilibrata e sana. E quindi veramente attenzione alle nostre scelte personali. Quando compriamo cibo, se sappiamo che non possiamo consumarne abbastanza, compriamone di meno, giusto? Ignazio. Giusto, ma io continuerei su questa linea del cibo. Il cibo deve essere usato bene, risparmiato, non buttato via, concesso a tutti, ma può diventare anche un affare. E quindi la notizia di oggi, che vi riporto sempre per rendere onore all'Egitto questa settimana, due sorelle egiziane emigrate negli Stati Uniti che sono diventate famose per aver messo su, mi sembra, il miglior ristorante vegano, ecco, che c'è nel paese. Lei si chiama, la prima, Iman Hajjaj, è arrivata negli Stati Uniti quando aveva 23 anni, adesso ne ha 39, era in possesso di una laurea presa alla facoltà di commercio, alla famosa Ain Shams University di in Egitto. E con la sorella ha avuto l'idea di trasformare quella che è la cucina egiziana, che adesso diciamo vegana, quindi una cosa molto sviluppata, ma loro dicono, ma la cucina egiziana è vegana, nel senso che c'è il ful, ci sono i falafel, poi ci sono le patatine, tutta una cosa fatta a base di vegetali, e quindi hanno aperto questo ristorante. Pensate che nel 2019 un importante sito americano l'ha collocato al 67esimo posto dei luoghi dove merita mangiare negli Stati Uniti su 100. Tutte le impiegate di questo ristorante, che è iniziato come un ristorantino, sono donne, vengono dal Marocco, dalla Giordania e dall'Iraq, ed è proprio un segno, come abbiamo detto già tante volte, della capacità imprenditoriale delle donne, anche donne musulmane. quindi col loro velo, se lo vogliono mettere, la loro cultura, ma hanno idee e le mettono in pratica. Grazie Ignazio, e allora cosa lanciamo come musica araba? Ma direi lo lancio in onore di Iman Hajjaj e di sua sorella, se ci stanno ascoltando, e dedichiamo per loro un pezzo di Mohammed Hamaki, che è un altro cantante egiziano, che si chiama, il titolo della canzone, Ba'eit Ma, sono rimasto con lui. Eccoci, bentornati sulle note di Mohammed Hamaki e su questo cantante egiziano. Siete sempre su Liberi Dentro Edu Radio e adesso siamo con la nostra rubrica di Galateo Arabo, questa settimana dedicata alla Costituzione egiziana, che è una delle nuove costituzioni nate dopo la primavera araba, vero Ignazio? Certo. Qualcuno può dire una Costituzione tradita, vedere tanti sviluppi che ben conosciamo, ma come sempre abbiamo sempre insistito, anche quando parleremo di Dustur, che è bene che si scrivano le cose buone sulla carta, perché almeno uno sa che deve far quello. Quindi l'articolo 9 sull'uguaglianza, guardate che bello, Taltasimu ad-Dawla, bitahqiq takafu, al-furas ben jami' al-mawatinin, duna tamiz, cioè lo Stato si impegna ad assicurare la parità di opportunità tra tutti i cittadini senza discriminazione, in particolare discriminazione tra uomini e donne. E allora, come sappiamo, non è dare a tutti tutto uguale, ma a dare secondo i bisogni. C'è chi ha bisogno di più, deve ricevere di più. Questo è il messaggio che ci viene oggi dalla Costituzione dell'Egitto. Grazie Ignazio, e ora passo la parola al nostro ospite Marco Santarelli, regista cinematografico, e con un documentario invece questa volta girato fuori dal carcere, Lettera al Presidente del 2013, che forse si allaccia un po' a un sogno, no? Cioè tu ricostruisci questa storia di questi tre ragazzini che nel 1969 vedono lo sbarco sulla Luna degli americani e scrivono una lettera al presidente, allora Giuseppe Saragat. Come mai quest'idea? Cosa succede in questo documentario? Sì, guarda, mentre ascoltavo Ignazio riflettevo sul fatto che poi le costituzioni non sono molto lontane dalle lettere ai presidenti, perché nelle lettere che poi io, centinaia di lettere che per il documentario ho letto e che hanno dato poi vita a lettere al presidente, si parla di desideri e bisogni, no? E le costituzioni nascono poi da tanti desideri e tanti bisogni, no? Quindi in realtà Lettera al Presidente è un viaggio dal dopoguerra al 69 attraverso i desideri e i bisogni dei cittadini. Un documentario raccontato attraverso le immagini dell'Istituto Luce Cinecittà e che si conclude con una delle lettere che più mi ha appassionato e emozionato, diciamo, in questa ricerca durata diversi mesi nell'archivio della Presidenza della Repubblica. E alla ricerca proprio delle lettere su cui costruire il documentario. E la letterina è quella di tre ragazzi di un paesino abruzzese che scrivono il 69 a Saragat, manifestando il loro piccolo desiderio di costruire una piccola astronave per andare su Marte, quindi spingersi oltre gli americani. E quindi ecco, questo un po' è il viaggio che comincia nel primo dopoguerra e si conclude con le pene del primo dopoguerra, le difficoltà del primo dopoguerra e si conclude con un piccolo sogno di tre tre ragazzini, perché i protagonisti della lettera all'epoca avevano 9-10 anni, che poi nel documentario chiaramente ritrovo, incontro, e così si chiude questo viaggio nella storia italiana. Una curiosità, da un punto di vista, sono lettere che hanno ricevuto una risposta o sono rimaste... No, molte delle lettere che ho visto, che ho potuto vedere e selezionare per il documentario, sono tutte lettere che hanno ricevuto una risposta dall'ufficio del presidente, quindi sì, sono istanze che poi sono andate a buon fine, ecco. Grazie, e quindi ci hai fatto un po' viaggiare anche oggi, ma magari anche con la musica, dove ci porti? Ma guarda, come si scrive una fuga? È il titolo e buon ascolto. Grazie, e noi ci rivediamo dopo con il prossimo ospite. Ed eccovi di nuovo su Liberi Dentro Edu Radio. Come vedete, non sono sola anche oggi, perché ci sono Beatrice Draghetti, che l'abbiamo già presentata la settimana scorsa di FOMAL, e lo chef Francesco Marcone. E Beatrice, siccome con te avevamo parlato delle attività di FOMAL e anche della osteria che ha aperto al minorile, ma non abbiamo parlato del laboratorio Chef al Fornelletto, che ha iniziato le sue puntate a febbraio di quest'anno, allora se ce lo racconti un pochino tu. Sì, grazie, buongiorno di nuovo. Allora, è un progetto appunto promosso da FOMAL, che è un ente di formazione professionale nel campo della ristorazione, cioè vuol dire che si acquisisce qui la competenza per cuochi e per essere operatori di sala e di bar. FOMAL ha accettato molto volentieri di sostenere 3 volte al mese un laboratorio televisivo in cui allievi di FOMAL assieme al cuoco, ecco Francesco Marcone che è qui presente, insegnano a cucinare, sapendo che i principali destinatari di questo laboratorio, di questa trasmissione, sono le persone detenute nel carcere della Dozza di Bologna e mi pare anche detenuti di altre carceri della regione. Questa è una collaborazione che io ritengo molto importante e che nasce, come ci hanno riferito, dal desiderio delle persone appunto detenute di imparare a cucinare in italiano, utilizzando gli strumenti semplici e mi pare neanche troppo abbondanti che hanno le persone detenute nel luogo dove vivono abitualmente. E per questo qui si spiega il significato, si spiega il titolo, Chef al Fornelletto, perché il fornelletto credo che sia uno degli strumenti di cui possono disporre. Io credo che questo progetto sia davvero una cosa molto importante anche dal punto di vista educativo e formativo per gli allievi del nostro ente, sia perché i ragazzi possono cominciare ad applicare e ad esercitare competenze che hanno acquisito appunto frequentando il nostro corso, ma poi credo anche che sia importante attraverso questa esperienza metterli a contatto con una situazione e con delle persone, come appunto le persone detenute del carcere della Dozza e di altre, che trovandosi in una situazione di ristrettezza, di libertà, hanno però desiderio di imparare cose nuove, quindi di rigenerarsi anche attraverso queste opportunità. e mi fa molto piacere sapere che, insomma, così ci riferiscono, che le persone detenute che seguono le trasmissioni televisive, il laboratorio di cucina, sono anche molto contente e soddisfatte. Quindi speriamo proprio di cominciare. Sì, ne approfitterei per chiederti anche, ti do conferma che ci stanno ascoltando e le puntate piacciono molto, e ti chiederei anche di dirci qualcosa sul minorile qui di Bologna, no? Il nostro carcere minorile, nel senso che la passione per la cucina, io che entro al carcere della Dozza come volontaria, l'ho sperimentato, nel senso che è vita. E allora ti chiedo anche per i ragazzi, questa cosa è vita ed è creatività? Dunque, FOMAL come ente di formazione ha i suoi circa 400 alunni nelle sedi di Bologna e di San Giovanni in Persiceto, però da anni FOMAL è presente con dei formatori anche all'interno del Pratello, quindi del carcere, che non è poi carcere, insomma del carcere minorile di Bologna, favorendo proprio della formazione in questo campo per i giovani che sono detenuti in questo luogo. E quindi anche loro acquisiscono competenze per il tempo che la hanno a disposizione. Con loro poi avevamo avviato uno splendido progetto inaugurato nell'ottobre del 2019, interrotto in marzo a causa dell'epidemia. Il progetto si chiamava Osteria del Pratello, cioè un ristorante aperto al pubblico, quindi con clienti veri, per il quale i ragazzi detenuti dentro al Pratello, che frequentavano i corsi di ristorazione, erano i cuochi e i camerieri, no, gli operatori di sala. E questo è stato ed è, perché io mi auguro che lo possiamo quanto prima riaprire, un progetto molto bello, perché ha dato molto entusiasmo ai ragazzi stessi, che si meravigliavano che persone dall'esterno potessero entrare venendo a cena presso questa osteria. Ma è importante anche per la città, che si è dimostrata da subito molto sensibile e attenta. Pensate che, quando, l'ho già detto l'altra volta, quando abbiamo interrotto, abbiamo dovuto chiudere, insomma, l'esperienza, c'erano circa 600 prenotazioni. È un'esperienza veramente molto bella che ci auguriamo di riprendere. Grazie Beatrice, e allora siamo a metà puntata, lancio un brano musicale di Alanis Morissette, You Learn. Hi, ragamen getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Hi, ragamen walking around naked in your living room. You live, you learn, you love, you learn. E rieccoci sulle note musicali di Alanis Morissette, siamo sempre su Liberi Dentro e abbiamo questi due ospiti con noi in puntata. E chiedevo a te, Francesco Marcone, che fai i laboratori di Chef al Fornelletto, un po' come hai iniziato la tua esperienza e come stava procedendo questa rubrica. Ok, buongiorno a tutti. Niente, questa esperienza è stata una proposta che è venuta da Fomal e l'ho presa molto, molto a cuore. E, niente, in poche parole, ci siamo messi alla prova, cioè vogliamo fare cucina senza attrezzature e tutte le volte inventiamo, trasformiamo le ricette classiche in qualcosa che si possa riproporre con pochissime attrezzature. I ragazzi sono contentissimi di fare queste cose, mi guardano un po' dubbiosi, poi quando cominciamo a lavorare anche loro sono presi e come si può vedere anche dai video sono vogliono partecipare, vogliono mettere un po' della loro partecipazione, della loro esperienza che hanno avuto in questi anni all'interno del FOMAL a disposizione di queste persone e sono veramente contenti e si passa la registrazione e tutto quello che è il discorso del chef al fornelletto in maniera molto allegra e serena. È un momento particolare della giornata istruttiva, è una versione diversa da quello che è istruzione classica. Facciamo qualcosa di particolare che i ragazzi apprezzano moltissimo e partecipano con veramente tanto entusiasmo. Ti chiedo un consiglio, siccome noi ci stiamo rivolgendo a tante persone, alla città, ma anche alle carceri dell'Emilia Romagna, a me piace, non mi piace definire queste persone, mi piace pensarle persone in ripartenza, soprattutto quelli che partono dalle carceri. Sì. E persone in ripartenza che a volte con tutto questo tempo che hanno davanti si scoprono o lettori o a volte anche cuochi, no? Perché scoprono una passione. Allora io chiedo a te un consiglio, quando ti sei scoperto cuoco, uno cosa deve fare? Allora, io ho cominciato la mia esperienza lavorativa, che avevo 17 anni, e per caso sono stato assunto in una grande azienda e ho cominciato proprio dalla base, ho cominciato a lavare tegami. Poi sono stato forse fortunato, ho incontrato delle persone meravigliose che mi hanno fatto apprezzare questo tipo di lavoro. E con il passare del tempo ho messo tutta la mia passione in questo lavoro. E basta veramente poco, è sufficiente una cosa che ti riesce, sei soddisfatto, l'hai creata tu, ti viene voglia di proseguire, di imparare cose nuove e da lì è partito tutto. Quindi in questa azienda ci sono rimasto 17 anni. E poi dopo ho cominciato nel mio percorso lavorativo in altre situazioni, sempre cercando di dare il massimo, di imparare tutto quello che era possibile e tuttora non sono fermo. Cioè, cerco sempre di inventarmi e imparare cose nuove perché in questo mestiere non si finisce mai di imparare. Giusto, esatto. E infatti dici delle cose molto, molto, quindi una grande passione, ma anche disciplina e un grande impegno. Quella, sì, la disciplina è a base di tutto, è l'impegno e la costanza in tutto quello che si fa, è fondamentale. Grazie Francesco, e come ci salutiamo? Come saluti i nostri ascoltatori? Io, se posso, lancerei una canzone, cioè a me piace molto Adele e Hello. Perfetto, ciao, esatto. Grazie mille, ciao a tutti. Ci rivediamo la prossima volta. typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So anche oggi chiudiamo il nostro martedì con Liberi Dentro e ci ridiamo appuntamento a domani alle ore 10.30, ma oggi pomeriggio il laboratorio, non perdetevelo, alle ore 17 su Teletricolore. Ringrazio tutti, vi ricordo sempre di scriverci liberidentro.duradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40, 136 Bologna, se avete voglia di scriverci una lettera su carta. Ci rivediamo domani e ringrazio il nostro ospite in puntata Marco Santarelli, Matteo Parisini, il nostro tecnico, e Ignazio De Francesco.